Stiamo parlando della Tiscali TV, che è una televisione digitale che forniamo ai nostri utenti VIP, però sul televisore di casa, grazie all'utilizzo di un decoder che funge da, come dire, trasmettitore del nostro segnale. Del tutto analogo rispetto al decoder che utilizzano, per esempio, i telespettatori di Sky, gli utenti di Sky, con la differenza che per noi non è necessario installare una parabola perché il segnale video passa attraverso la rete telefonica, la rete IP. Questo è un servizio naturalmente a pagamento, una serie di canali che vengono distribuiti attraverso la vostra rete. Per il momento in alcune città, sono tre le città, poi dal prossimo anno diventeranno molte di più. Che cosa si può vedere? Innanzitutto si possono vedere tutti i canali del digitale terrestre. Il set-top box è un set-top box ibrido che permette di ricevere in maniera integrata con la stessa interfaccia sia i segnali, ad esempio, di Rai 1, Canale 5, tutti i segnali, anche i nuovi canali del digitale terrestre, in contemporanea nello stesso sistema dei segnali che invece, dei canali che invece abbiamo costruito noi. Che abbiamo costruito noi direttamente o costruito con i nostri partner. Canali che ad esempio portano in casa degli utenti, dei telespettatori del grande cinema, canali che portano invece ad esempio i contenuti per bambini in maniera molto interattiva, molto divertente, molto simpatica, molto sorridente direi, che portano in casa la musica di grande qualità di tutte le grandi label internazionali. Lasciando però sempre, qualunque sia questo contenuto, libertà all'utente, al telespettatore, di scegliere in maniera del tutto facile, comoda, il contenuto che preferiscono, senza nemmeno dover essere obbligati a scegliere, perché una particolarità della nostra piattaforma è proprio questa. Se l'utente è seduto sul divano e in quel momento non ha voglia di interagire col decoder, può semplicemente guardare un programma televisivo nostro o dei nostri fornitori. Oppure, se è interessato a un qualche contenuto in particolare, può molto facilmente col telecomando selezionare i contenuti che gli interessano di più in quel momento. E questo vuol dire che anche a seconda del momento della giornata, l'utente, il telespettatore, può scegliere, come dire, una forma diversa di fruizione del servizio. Perché magari di pomeriggio, mentre sto leggendo il giornale, ho piacere di avere il sottofondo della musica. E molto semplicemente posso ascoltare della musica, quella che voglio io, però proprio quella che voglio io, non quella che mi offre un palinsesto preconfezionato. Mentre magari la sera alle 8:20, alle 8:30 sono arrivato in ritardo a casa dall'ufficio, vorrei vedermi il telegiornale e normalmente non riesco a farlo. Col nostro sistema, con la modalità della Replay TV, può andare indietro nel palinsesto, sempre guardando il canale, ad esempio Rai 1. Può andare indietro nel tempo, selezionare il TG1 delle 20 e farlo andare in tutta comunità. E in più c'è il controllo totale di questi contenuti, come se fossero dei DVD, veramente semplici, tanto semplici che li può usare un bambino. E infatti per i bambini abbiamo distribuiamo un telecomando piccolo, colorato, molto sicuro, con pochissimi tasti che permettono ai bambini di usare i nostri contenuti come se fossero i DVD che sono già abituati a utilizzare, ma in più gli impediscono di accedere a tutte le altre aree, in maniera che possano essere sicuri loro e i genitori che li accompagnano.